Effetto Mondo. E buongiorno a Giulia Crivelli. Buongiorno. Allora, continuiamo a parlare dello stesso argomento di prima, in pratica sì. Perché insomma anche la lettura dei giornali internazionali è condizionata sempre da questo argomento, soprattutto sì. Negli Stati Uniti. Tanto che l'ottimo Jacopo De Franchi, nostro in redazione, mi chiede sempre un po' un titolo che riassume la puntata, e quello che ho suggerito per oggi è basta Medio Oriente. Non è il Medio Oriente il tema della campagna elettorale e degli interventi del presidente Trump, ma torna a essere il Covid, che cioè non è durata un 24 sì. ore insomma, e direi che proprio è sulle prime pagine di tutti i giornali l'ennesimo scontro all'interno della task force contro il coronavirus messa insieme dallo stesso Donald Trump. In questo caso sentiamo per la voce di Robert Redfield, che è un virologo della stessa esperienza più o meno di Anthony Fauci, qualche anno di meno, a 69 anni, è il presidente del Center for Diseases Control and Prevention, cioè è una delle più importanti agenzie che controllano la diffusione delle malattie, e tra l'altro è stato nominato dallo stesso Donald Trump nel 2018. È stato chiamato da una commissione del Senato in Parlamento a rispondere alle domande dei senatori. Quando si è seduto a quel tavolo, questo è successo ieri, ha dovuto, come è d'obbligo per tutti, giurare di dire la verità, e questo è quello che ha detto. If you're asking me when is it going to be generally available to the American public so we can begin to take advantage of vaccine to get back to our regular life, I think we're probably looking at late second quarter, third quarter 2021. Piccola traduzione. Eccoci qua. 2021 dice: se mi chiedete quando il vaccino potrà essere disponibile per tutti e permetterà a tutti di tornare a una vita normale, beh, io vi dico, prima ha detto terzo trimestre, poi ha detto fine del secondo trimestre, terzo trimestre del 2021. Questa cosa ha fatto infuriare Trump, ripetiamo, una dichiarazione sotto giuramento di un membro della task force contro il Covid. Quando in conferenza stampa è stato chiesto a Trump, ma come? Lei appena continua a dire che probabilmente ci siamo, che entro quest'anno il vaccino sarà disponibile, Trump ha risposto così. Sentiamo. I think he made a mistake when he said that. It's just incorrect information. And I called him. And he didn't tell me that, and I think he got the message maybe confused. Dice: l'ho chiamato, gli ho detto che aveva dato un'informazione incorretta, e gli ho detto che forse si era confuso. Questo è il presidente Trump. Io scusate se sorrido, perché naturalmente si potrebbe sì. dire non c'è niente da ridere, però capite che queste smentite a livelli così alti tra uno dei massimi responsabili della strategia di risposta al Covid e il presidente, proprio mentre si continuano a contare i contagi, si è in piena emergenza, è se non altro strabiliante, ecco, questo direi. No, certo, è vero, perché ma poi fate anche capire, se un conto è se si chiariscono le idee ad alta voce, e questo potrebbe distrarre, creare confusione nelle persone. Altro è se Trump usa questi personaggi li strumentalizza per quella che è la sua campagna, a dire tra poco è tutto risolto, sì. eccetera. E tra l'altro anche queste sono due cose diverse. Anche il linguaggio, he got the message, ha ricevuto, ha capito quello che volevo dire, cioè è come una specie di detto pubblicamente, gli ho fatto capire che non può fare di questo tipo di affermazioni, ma siccome si parla di scienza e quello è il campo di Redfield, c'è qualcosa che storna. Che non torna, c'è qualcosa che non torna. Vabbè, insomma è una gara, no? A cercare di dare notizie, annunci anche tranquillizzanti da parte di tutti. Tra l'altro, sempre in tema di campagna elettorale, perché poi di questo anche danno conto tutti i giornali e anche i grandi sì. network, Trump ha anche detto che Biden, testuale, ha sbagliato a non imporre un obbligo nazionale di mascherine. E Biden ha semplicemente twittato: ma io non sono il presidente. Quindi anche lì questo tentativo di tenere la campagna elettorale, una cosa che noi conosciamo benissimo, a livello di slogan, e contare su quello spazio che passa tra lo slogan e la risposta ufficiale o la spiegazione, insomma, sta, come diceva l'Economist, che non sbaglia mai, è una ugly campaign, una campagna brutta, insomma. Qualche altro titolo principale prima di arrivare agli approfondimenti? Sì, sicuramente su tutte le pagine c'è, perché da una parte sulla West Coast brucia la California, e dall'altra parte in Florida c'è l'uragano Sally, che avevamo detto stava arrivando, è arrivato. Ci sono delle foto impressionanti di questa città della Florida, che sì, e anche di alcune città dell'Alabama, proprio dove le strade, le macchine nuotano nell'acqua. Quindi l'ennesimo disastro ambientale. La Florida ha un governatore repubblicano, quindi molti quotidiani ipotizzano che almeno, oltre alla dichiarazione dello stato di emergenza che spetta al governatore, arrivino anche immediatamente degli aiuti federali, che, lo ricordiamo, Trump ha per ora negato alla California, prima di tutto perché il governatore è democratico e poi perché ha accusato la California e i vigili del fuoco e l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente statale di non aver fatto abbastanza per la prevenzione. È passato un po' sotto silenzio, almeno in Italia, il rapporto delle Nazioni Unite che riguarda i presunti crimini, insomma, contro l'umanità di Maduro. E invece i giornali spagnoli, entrambi, sensibili, sì, all'argomento, ne danno conto, perché comunque sì, sono veramente quelli che possiamo considerare crimini contro l'umanità, quindi tortura di massa, sparizione di persone con il divieto assoluto di dare informazioni alle famiglie, minacce di ogni tipo a qualsiasi tipo di opposizione. In effetti in Venezuela non c'è più opposizione, ma non c'è solo questo, c'è anche proprio l'aver usato o comunque l'aver attraversato la fase di emergenza sanitaria ancora una volta discriminando quelli che già erano in difficoltà. Maduro ha tentato addirittura, lo ricorda El País, di ipotizzare un contrabbando di medicinali per addossare a qualcuno, non meglio precisato, la colpa del fatto che gli ospedali sono senza medicine anti-Covid, tutto quello che si può usare per mitigare, sappiamo che non c'è ancora una cura a questa malattia. Allora, dove andiamo? In Gran Bretagna? Ma se vuoi, giusto, perché sì, comunque insomma magari gli americani così non è la loro priorità, però ne abbiamo parlato tanto, è un accordo importante. Su questo accordo ho trovato questo articolo molto interessante su Middle East Eye, che si intitola Arab Normalization with Israel. Who is next? Chi viene adesso? Perché il presidente Trump ha parlato di altri 5 paesi pronti a normalizzare gli accordi con Israele e ci chiediamo, ma quali potrebbero essere? E è molto interessante perché vengono esclusi Qatar, Kuwait e Algeria, perché hanno di recente categoricamente escluso un accordo con Israele, mentre Libia, Siria e Iraq vengono considerati difficilmente candidati a questo ruolo perché hanno troppi problemi interni. Secondo Middle East Eye, invece, l'Oman, per esempio, potrebbe essere uno dei prossimi paesi ad annunciare una normalizzazione. Ricordiamolo sempre, a basi soprattutto economiche. Si tratta di una normalizzazione diplomaticamente legata, diciamo, al concetto di pace, ma in realtà è un modo per dare il via libera ai rapporti economici che di fatto già esistono. Ti stavo portando sull'Europa. Nel Regno Unito naturalmente abbiamo visto ieri, abbiamo visto nei giorni scorsi questa prova di forza di Boris Johnson. Pare che sia riuscito, non con molta trasparenza, a convincere tutti quei membri del Partito Conservatore che avevano molti dubbi sul suo accordo per la Brexit. E poi ci sono ancora possibilità di qualche tipo di misura restrittiva, per esempio riduzione degli orari dei ristoranti e dei pub per limitare i contagi. E poi c'è anche spazio comunque per su Financial Times, anzi è proprio la foto di prima pagina di Ursula von der Leyen con questo piano che ha annunciato ieri. Se in Italia è stato soprattutto sottolineato il fatto che si va verso la fine dei famosi accordi di Dublino, i Financial Times e molti quotidiani tedeschi parlano invece di tutte le sue dichiarazioni per quanto riguarda la famosa svolta verde. E invece per quanto riguarda la Francia, cosa abbiamo sui giornali francesi? In Francia l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, Macron insomma diceva bisogna riportare l'ordine in Francia. In Francia, come negli Stati Uniti ma anche in tanti altri paesi, la pandemia ha avuto come effetto collaterale anche un aumento della delinquenza normale. Adesso, dice in prima pagina Le Figaro, adesso basta impunità, questo è stato l'annuncio ieri fatto all'Assemblea Nazionale per gli squatters, cioè gli squatters, cioè chi occupano le case abusivamente. Sì, quindi è un po', insomma, poi naturalmente c'è spazio anche per quello che ha detto von der Leyen a Bruxelles, ma è come se quando la Francia non fosse direttamente coinvolta in qualche grande annuncio europeo, magari a fianco della Merkel, la notizia non fosse poi così importante. Abbiamo ancora qualche secondo, qualche altro titolo da darci? Beh, in Germania naturalmente c'è molto spazio anche per quello che sta succedendo, forse l'avrete seguito, alcuni poliziotti sono stati sospesi e molti altri sono comunque sotto indagine perché si è scoperto che si scambiavano su queste chat che stanno diventando l'ennesimo lato oscuro dei social, si scambiavano messaggi chiaramente razzisti con minacce o con soddisfazione, addirittura si scambiavano foto per la soddisfazione di arresti e violenze sugli immigrati, e questo, secondo molti giornali, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica Steinmeier, è il segno che comunque l'estrema destra, come molti temono, riesce a infiltrarsi ovunque, anche nelle forze dell'ordine, ed è sempre più estrema, tra l'altro, come se non avesse neanche più vergogna di mostrarsi, perché in fondo una chat si sa che prima o poi qualcuno la può vedere. Grazie Giulia, ci risentiamo domani. È tutto per la puntata di oggi, con Jacopo De Franchi in redazione, Alessandro Schirano in assistenza in diretta, Pietro La Corte in regia. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata.